Ascolta il testo. Sono diversi gli italiani che hanno ricevuto il premio Nobel come riconoscimento del loro contributo in campo scientifico. Per la fisica, Guglielmo Marconi nel 1909 per lo sviluppo della telegrafia senza fili, fondamentale per il futuro della radio e della televisione. Enrico Fermi nel 1938 per le sue ricerche sulla radioattività e per la scoperta delle reazioni nucleari, ed Emilio Segrè nel 1959 per la scoperta dell'antiprotone. Per la chimica, Giulio Natta ha ricevuto il Nobel nel 1963 per il suo grande contributo nella chimica macromolecolare, e i suoi studi sui polimeri hanno avuto dei risvolti nella commercializzazione di articoli in plastica. Per la medicina, Camillo Golgi nel 1906 per le ricerche sul sistema nervoso, Daniel Beauvais nel 1957 per i suoi studi sugli antistaminici e i curari utilizzati come anestetici, Salvador Luria nel 1969 per le sue scoperte sulla struttura genetica dei virus, e Renato Dulbecco nel 1975 per le sue scoperte che riguardano l'interazione tra virus tumorali e materiale genetico della cellula. Nell'ultimo trentennio si sono distinti tre grandi personaggi: Carlo Rubbia e Riccardo Giacconi per la fisica e Rita Levi Montalcini per la medicina.